notare il movimento, la contestazione, il salto mortale contro ogni poltronismo. Noi canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Noi siamo contro ogni docilità selezionata, imposta e finalizzata a renderci sudditi. Noi siamo indipendenti da ogni passatismo. Noi vogliamo la libertà di generare scosse elettriche, poliedriche e multifunzionali contro chi agisce contro il popolo. Noi vogliamo un'immaginazione senza fili e senza pari mascherati da imponitori. Noi vogliamo città musicate e musicali, artistiche e pittoriche, animate e animatrici, profumate e polifoniche. Vogliamo luci imperanti nel buio e tornali di adrenalina positiva. Noi siamo per la libertà di pensiero, religione, manifestazione e azione, e siamo contro ogni fanatismo. Noi vogliamo illuminare il chiaro di luna e siamo contro i modelli imperanti e preconfezionati di donna. Noi vogliamo svalutare il matrimonio, la verginità e ridicolizzare la gelosia. Noi siamo contro la gioventù involuta scimmia metropolitana. Siamo per la gioventù ribelle e duellantemente combattiva. Noi siamo per l'appartenenza, ma siamo contro ogni ritorno a schemi e colori del sepolcrismo passato. Siamo per la storia che deve ancora venire e vogliamo ricolorare il concetto di patria. Noi vogliamo città colorate e senza il grigismo imperante di ponti, palazzi, marciapiedi e strade. Vogliamo strisce rosa su asfalti verdi e fantasie di fontane con acqua vermiglia su prati arancio allegria. Vogliamo la libertà di coltivare piantine per non ingrassare le mafie. Noi vogliamo inondare di felicità acquatica tutti i deserti degli assetati. Vogliamo spaventare la fame e la sete affinché spariscano per sempre. Noi vogliamo mille universali dalla carica inesauribile per sostituire le malate centrali elettriche e nucleari ed illuminare ecologicamente tutte le terre del mondo. Vogliamo autovolanti che lascino libere le strade ai campi, ai giardini, ai ruscelli, ai bambini e a tutti gli animali. Vogliamo grattacieli galleggianti nell'aria che non occupino le terre. Vogliamo case enormi e gratuite per ognuno e l'abolizione di ogni palazzo alveare. Noi vogliamo la sanità pubblica, la scuola laica di Stato, la moneta di popolo, l'abolizione del signoraggio bancario e delle multinazionali dello sfruttamento. Noi cantiamo le gesta di tutti gli eroi recenti e passati, offuscati dalla vorace cecità pilotata dei media. Noi vogliamo lavorare e vivere dignitosamente, lo pretendiamo. Noi vogliamo una giusta pensione, noi vogliamo ciò che ci spetta e pretendiamo il trionfo scintillante e trasversale di ogni libertà personale e di ogni diritto collettivo.